Siamo in diretta a Fuji con Focus On del mattino, entriamo nel vivo della trasmissione di quest'oggi perché si avvicina l'anniversario, il decimo anniversario di Genova 2001. Dieci anni fa decine di migliaia di donne e di uomini diversi per età, condizione sociale, percorso politico e biografie personali si diedero appuntamento a Genova per contestare il vertice degli autonominati grandi della terra e ovviamente le loro politiche liberiste. A dieci anni cos'è rimasto di quel movimento? I semi piantati stanno germogliando ora? Sono questi e altri gli interrogativi a cui si cercherà di dare risposta questa sera a partire dalle 18.30 al TPO di Via Casarini nell'iniziativa intitolata Genova 2001, la storia siamo noi, dialoghi attorno a un movimento globale. Noi ne abbiamo parlato con Marco Trotta, uno degli organizzatori, e ora ascoltiamo l'intervista. Questa sera ci vedremo un po' di persone, speriamo davvero molte persone, ma quindi le aspettative sembrano queste, che hanno firmato, hanno sottoscritto, hanno diffuso un appello che in questi giorni abbiamo fatto girare partendo da una manciata di firme. E che cosa diceva l'appello? Diceva sostanzialmente che a 10 anni dal G8 sicuramente abbiamo voglia di raccontare quello che c'è stato 10 anni fa, ma anche di riannodare i fili perché i temi di quel G8, le modalità di quel G8, le relazioni di quel G8 parlano molto del futuro, hanno a che fare con i beni comuni, con i diritti civili, con i diritti dei migranti, con le questioni ambientali, tutte questioni che abbiamo visto in questi 10 anni invadere spesso lo spazio pubblico, che fanno parte anche della cronaca perché riguardano anche la Valsusa e che in qualche maniera oggi abbiamo bisogno di riprendere in mano per capire un attimo che tipo di futuro vogliamo costruire insieme. La serata è per questa sera appunto dalle 6:30, dove ci saranno una serie di riflessioni che vorremmo fare insieme. Siamo partiti dall'idea che molto spesso molti di noi nei nostri ambiti parlavano di queste cose tra amici, però in realtà ci sembrava farlo molto più utile in un contesto più allargato, quindi una serie di riflessioni. Poi ci sarà un aperitivo, perché spesso i momenti conviviali sono anche i momenti nei quali si continuano le discussioni sui temi aperti, e poi un vero e proprio dibattito che speriamo sia davvero partecipato, nel senso che ha allargato la città e sappiamo che ci sono molte persone che hanno da raccontare da questo punto di vista. Durante il dibattito ci sarà anche un intervento di Heidi Giuliani in collegamento da Genova, perché ovviamente ci sembra utile che ci vengano raccontate le iniziative che si stanno organizzando già adesso per il decennale, e quindi raccontarci un po' di tutto quanto il programma, la serie di eventi. C'è una mostra che si chiama Cassandra che è già aperta a Genova. Ci sarà una diretta streaming dell'evento e una diretta Twitter. Tutto quanto questo verrà messo sul sito di globalproject.info. Credo che insomma alla fine della serata cercheremo anche di tirare un po' le fila della discussione da questo punto di vista. Ecco, tu accennavi della mostra Cassandra, un titolo non a caso, perché insomma tutto quello che si dicevano i social forum in quel 2001 poi si è avverato. Sì, c'è un libro che io consiglio di Lorenzo Guadagnuccio e Vittorio Agnoletto, che si chiama Le piste della democrazia, che ha un capitolo proprio su questo, e viene citato un intervento di Valdembello che viene fatto al forum sociale prima delle tre giornate fatidiche del 19, 20 e 21, che in qualche maniera è straordinario perché anticipa molti degli argomenti, e in particolare su quello della crisi. Dire che avevamo ragione su tutto ovviamente secondo me non basta. Quello che faremo non è porre delle dichiarazioni, ma porre più delle domande, suscitare più una discussione. Neanche noi abbiamo una risposta in tasca da questo punto di vista. C'è stata la crisi, sì, però bisogna dire anche oggettivamente che quel movimento non è stato capace di arginarla. Ci sono delle questioni aperte da questo punto di vista. E quindi dire abbiamo ragione su tutto non basta, è però che molte delle indicazioni che sono venute da lì sono ancora attuali, questo è importante dirlo, e penso che domani, che questa sera sarà un momento utile per farlo. Quello che contraddistinse il movimento prima della repressione di Genova era la capacità di suscitare partecipazione, una cosa che sembra rispuntare in questo periodo a distanza di 10 anni, però allora appunto, come ricordiamo, la repressione di Genova diciamo che fermò la portata, no, di quella partecipazione. Ora sta accadendo lo stesso ad esempio in Val di Susa? Ma su questo è uno degli interrogativi aperti che secondo me sarebbe utile porre all'assemblea questa sera, perché in realtà per certi versi non è proprio stato così. Allora, bisogna dire una cosa. Intanto a Bologna abbiamo avuto un osservatorio particolare perché molto probabilmente queste tematiche sono state affrontate prima, perché c'è stato un altro decennale di cui probabilmente si è discusso poco, ma era quella del NOx. A Bologna siamo partiti prima, c'è stato il social forum, è nato prima di Genova, perché molti social forum sono nati dopo Genova, a Bologna abbiamo cominciato prima, e quindi queste pratiche di partecipazione, di relazione tra pari, di strutture che tenevano insieme più persone, biografie, che organizzazioni vere e proprie, era cominciato prima. Io per corroborare questa tesi cito soltanto un fatto, insomma, poi questo è stato anche il movimento che l'anno successivo ha partecipato in massa al Forum Sociale Europeo di Firenze, e un anno dopo ancora è stato in piazza in quell'evento importante che sono stati 10 milioni di persone in tutto il mondo contro la guerra in Iraq, contro quello che stava per nascere in Iraq. E quindi in qualche maniera sono vere tutte e due le affermazioni, molto probabilmente. Ci sono state persone che si sono spaventate per la repressione dura, ma anche persone, questo l'ho appurato io e molte altre persone che siamo andate in giro comunque in questi anni, che proprio per questo hanno avuto un moto di reazione, si sono attivate, hanno fatto i loro comitati. Aggiungo un'altra cosa, molto probabilmente i semi di questo decennale stanno in molte delle proteste che sono nate dopo. Io ho avuto esperienze in scuole di Imola e ho visto l'esperienza degli indignati in piazza Maggiore. Beh, molti dei ragazzi che sono passati da lì hanno partecipato, anche non avevano un'età minore, ma avevano partecipato anche a queste cose. Quindi alla fine spesso i movimenti sono carsici, perché i semi che vengono seminati fuori col tempo crescono e diffondono questa speranza anche in altri luoghi. Fujiko Focus On. Questo era ovviamente Paolo Conte con Genova per noi. Continuiamo a parlare di Genova perché c'è un fumetto per ricordare Carlo Giuliani a 10 anni della sua uccisione e per raccontarne la vita oltre all'immagine che abbiamo ancora in mente. Questa è la pregevole iniziativa editoriale della casa editrice Becco Giallo, che ha appena dato alle stampe Carlo Giuliani, il ribelle di Genova, di Francesco Barilli e Manuel De Carri, una graphic novel che è anche un'intervista a chi Carlo lo conosceva da vicino, cioè parenti e amici, e allo stesso tempo una ricostruzione di come si è potuti arrivare a quel tragico 20 luglio 2001. La nostra Federica Pezzoli ha raggiunto uno degli autori, Francesco Barilli, e allora ascoltiamo l'intervista. Genova credo che sia stato uno spartiacque nella vita di tante persone, per quelli che c'erano e per quelli che non c'erano. Io posso parlare per me ovviamente, e ti dico che io sono nato nel 65, quindi faccio parte purtroppo di quella generazione che ha vissuto la gioventù negli anni 80, la generazione del riflusso, quella praticamente che può essere ricordata per aver combinato ben poco e per aver affossato certe speranze che proprio il movimento di Genova provava a riallacciare, a riaccendere. Io ti dico, per me Genova è stato uno shock che a mio modo ho introiettato, cercato di superare proprio scrivendo, occupandomi di reti invisibili, eccetera, eccetera. Tra l'altro ti dico che Genova è stato uno spartitacque poi particolarmente perché umanamente e tra virgolette politicamente, come impegno civile, ho stretto la conoscenza con Heidi, con la famiglia Giuliani già in quei mesi lì, e quindi quando Heidi Giuliani ha avuto l'idea di mettere su un sito che è appunto retimenoinvisibili.net, dedicata a tutte le vittime di forze dell'ordine o della violenza neofascista, da Portella della Ginestra fino ai giorni nostri, perché purtroppo, qui faccio una parentesi, ma purtroppo non c'è stato solo Carlo, ma poi sono proseguite queste violenze, ha scelto proprio me perché mi occupassi del sito. In quest'ottica per me era una cosa naturale, cioè era una cosa che dovevo farla, capisci? Ecco, il libro è il tentativo di andare oltre l'ultima giornata di Carlo e l'immagine bidimensionale incarnata simbolicamente da quell'immagine fotografica di vandalo che sbrigativamente i media gli hanno cucito addosso, ricostruendo invece la sua personalità nella sua interezza. Sì, esatto, ecco, questo direi è poi lo scopo più specifico, nel senso che in particolare di Carlo Giuliani io posso dire due cose. In primis, che di tutti i fatti di Genova, proprio l'omicidio di Carlo, quindi il fatto più grave, il fatto più irrimediabile, è l'unico che non è arrivato a un'aula processuale. Nel senso, io qui non si tratta di fare una spiacevole antipatica graduatoria di gravità. È chiaro che è gravissimo anche ciò che succede a Bolzaneto, ciò che è successo alla Diaz, eccetera. Però bene o male abbiamo avuto delle risposte processuali sugli altri fatti. Carlo Giuliani nemmeno è entrato in un'aula processuale. Il secondo elemento è che, come dicevi giustamente tu, Carlo Giuliani nell'immaginario collettivo è rimasto il ragazzo cristallizzato alle 17.27, canottiera, passamontagna, estintore in mano, che tenta di assaltare la camionetta dei carabinieri. Ecco, volevamo andare un pochettino oltre questa immagine, capire come ci si è arrivati, che ragazzo, che uomo era Carlo nei suoi 23 anni della breve vita che ha vissuto. Questo era quello che volevamo fare, anche un modo di restituire dignità e giustizia a un ragazzo tramite il fumetto, visto che purtroppo la giustizia processuale non l'ha voluto fare. Ecco, quindi Francesco, possiamo definirlo una, non solo una controinchiesta con la ricostruzione degli eventi appunto del 20 luglio, ma la ricostruzione del ricordo di una persona, di Carlo Giuliani. Sicuramente, infatti nel fumetto abbiamo scelto, proprio abbiamo scelto di farci accompagnare come nei cori di una tragedia greca da chi l'ha conosciuto, quindi dai suoi familiari. Heidi, Giuliano, Elena, la mamma, il papà e la sorella. Perché vedi, un'altra immagine che è rimasta cristallizzata da quella famosa fotografia che tu citavi prima è quella del ragazzo sbandato, quasi predestinato a quella tragica fine da una vita vissuta ai margini della società e ai margini della legalità. Tutto questo non era vero, perché Carlo era un ragazzo che aveva una famiglia dietro di sé, aveva una famiglia che lo amava, che lo conosceva, che lo apprezzava. Vorrei precisare una cosa, qui ci tengo, è chiaro che non sarebbe stata meno tragica o meno dolorosa la sua morte se fosse stato un senza famiglia, per l'amor del cielo, però è chiaro che questa era un'altra falsità che noi volevamo combattere. Ecco, come hai già anticipato tu, per raggiungere l'obiettivo di disegnare questo ritratto, vi siete fatti aiutare da chi questo ragazzo l'ha cresciuto e conosciuto. Certo. E quindi ci sono gli inserti appunto dei familiari e degli amici di Carlo, che però avete scelto di introdurre con una particolare decisione stilistica, una particolare scelta stilistica. Come dicevi tu, sono una specie di coro fuori campo. Sì, è stata anche una scelta artistica questa, nel senso che noi abbiamo voluto, era un fumetto particolare e complesso quello di Carlo rispetto per esempio a Piazza Fontana che avevo condotto prima. Piazza Fontana, che per carità è un'altra storia terrificante e complessa, ma ha una sua linearità, per come abbiamo cercato di condurla io e Matteo Fenoglio nel precedente lavoro. Carlo, come accennavamo prima, volevamo parlare del 20 luglio, cioè di come si arriva a quella benedetta o maledetta foto, di ciò che è successo dopo, che per certi versi è addirittura più inquietante, quindi i depistaggi, il tentativo purtroppo riuscito di non arrivare a un'aula processuale, e volevamo ricostruire anche la sua vita di ragazzo, con le sue luci, con le sue ombre, con i suoi slanci, con le sue aspirazioni. Carlo era un ragazzo che già da adolescente scriveva poesie e con un talento tra l'altro piuttosto notevole. È chiaro che a questo punto abbiamo scelto proprio di separare le parti lirico-evocative da quelle da controinchiesta, dai cori, tra virgolette, dei familiari. Per esempio, tutte le interviste che noi facciamo a Elena, Heidi e Giuliano sono condotte sempre senza mostrare nel volto, nel fisico, nella domanda dell'intervistatore, e mostrando i tre personaggi quasi sospesi, senza ombre, in vigne, che segnino anche un segno grafico, uno stile grafico diverso dalle altre parti. Fujiko Focus On.